La sicurezza è Volvo. La tecnologia è Volvo. Il prezzo è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 30 novembre con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Viaggia senza limiti. Ora puoi. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri. La storia dei divi dello spettacolo, in particolare del cinema, perché è di cinema che parleremo oggi, è costellata da meteore, persone che hanno ottenuto anche una fama stellare e poi l'hanno vista svanire nel giro di pochi anni. Beh, questo sicuramente non è il destino che è toccato all'uomo di cui parliamo oggi. 76 anni di carriera, è entrato nell'Olimpo dei grandi che hanno avuto il privilegio di non passare mai di moda. La sua arte si è legata a un immaginario che è riconosciuto universalmente, importante sotto ogni punto di vista. Stiamo parlando veramente di una leggenda. Lo dimostra l'immagine ancora viva, riconoscibilissima del suo personaggio, comunque del personaggio più iconico da lui ideato. Bastone da passeggio, bombetta, baffetti, vestiti logori, camminata altalenante con i piedi divergenti, insomma, con questi pochi elementi avete già capito di chi parleremo oggi. Oggi parleremo di Charles Spencer Chaplin, Charlie Chaplin. Secondo l'American Film Institute, ma anche secondo proprio la storia, stiamo parlando di una delle star più famose proprio della storia del cinema. E pensate che era partito veramente con l'handicap, perché la sua infanzia è stata difficile e lui tocca con mano la povertà e la miseria, e questo sarà per sempre di ispirazione per i suoi film, per i suoi personaggi. Lui nasce povero 16 aprile 1889, nasce in un sobborgo londinese. Il padre è un attore di varietà di discreto successo, sempre in tournée, però insomma in quegli anni gli attori in tournée non erano ricchi come sarebbe capitato più avanti. La madre Anna è una cantante, un'attrice molto dotata, ma molto meno famosa del marito. Ricorderò sempre la stanza al piano superiore di Three Pownall Terrace, dove vivevo da ragazzo, quando mi arrampicavo su e giù lungo quelle tre anguste rampe di scale, e il fruttivendolo Haley in Chester Street, e Ash che vendeva il tè, e quei dolci stantì da un penny che riservavano sorprese dubbie e piacevoli. Charlie e il fratello maggiore Sidney trascorrono diversi anni della loro infanzia tra i collegi e gli istituti per orfani a Lambeth, ma i momenti che Chaplin ricorda con più tenerezza sono quelli trascorsi con la madre sul palcoscenico. Nel 1896 lui sta assistendo a uno spettacolo di Anna, della madre, al teatro di varietà. La cantante viene fischiata, cacciata dal palco per un improvviso abbassamento di voce. Il bambino decide di sostituirla di sua iniziativa. Canta al posto della madre, ha 7 anni, lui conquista subito il cuore del pubblico con la sua simpatia, con la sua presenza scenica. E ora, signore e signori, vi chiediamo un istante di attenzione, avanti, un po' di contegno, comportatevi come si deve, forza ragazzi, vi prego, calmatevi, con il caso signore, facciate così, signore. Tu levatevi qui, battere da questo palcoscenico, abbiamo un grandissimo numero per voi. La canto io la canzone. Sì, fallo cantare! Vediamo come se ne cava! Ma che cosa aspetti? Fallo cantare! Coraggio! Come ti chiami, signore? Charles, e poi? Charles Chaplin. Signore e signori, senza alcun preavviso, e che Dio ce la mandi buona, per farvi cosa gradita abbiamo il piacere di presentarvi il signor Charles Chaplin! Grazie. Un minutino. From those when L'audio che sentite è tratto dal film Charlot del 1992, basato proprio sull'autobiografia di Chaplin. Charlie mantiene la madre a questo punto. La madre sta dando segni di squilibrio, non è più in grado di badare a se stessa, e allora lui comincia a recitare in piccole compagnie, parte in tournée, interpreta uno strillone nello spettacolo Sherlock Holmes. È il primo ruolo che lo farà conoscere, però è una gag che diventerà famosa, la gag dell'ubriacone. L'ubriacone che ondeggia, inciampa, rotola sul pavimento, poi cade. Questo fa morire dal ridere il pubblico, la mimica è esasperata. E poi c'è la sua faccia che è insieme stupida e arguta. È la pantomima, è l'arte di raccontare senza le parole ma col corpo e con i gesti. Chaplin diventa subito un maestro di questa disciplina. Le sue performance sono degne di un atleta, coinvolgono tutto il corpo, come è tipico nella slapstick comedy, che è la commedia delle botte in testa e degli inseguimenti. Il fratello Sidney lo raccomanderà alla compagnia di Fred Carno. Bada, non mi deludere. Sarò grande, Sid. Non devi essere grande. Solo star zitto. E essere buffo. Buongiorno, signor Carno. Ciao, Sidney. Chi è che vuoi presentarmi? Charlie. Allora, che hai da dirmi di questo tuo fratellino? Beh, ecco, lui ha fatto altri lavori finora, signor Carno, però sa cantare e ballare, che è una meraviglia. Sidney, i ragazzi come te che sanno cantare e ballare mi escono dalle orecchie. Mi servono dei comici. Sì, ma le sue farse sono fantastiche. Sa, ce l'ha nel sangue. Lo guardi bene. Peraltro, lavorando per Carno, Charlie conoscerà anche Stanley Jefferson, meglio conosciuto come Stan Laurel, la star di Stanley Olio. Durante il tour in America, Chaplin verrà notato da Max Sennett, è un produttore cinematografico. Siamo nel 1913 e Charlie è affascinato da questa nuova arte che vuole riprodurre la vita su uno schermo. È intimorito anche. Gli attori di teatro pensano che un vero artista debba esibirsi su un palco scenico, non dietro una macchina che li riprende senza il pubblico. In realtà il cinema è una svolta epocale anche per quello. Per la prima volta fai una cosa e non hai subito il riscontro. Chaplin però firma il suo primo contratto con la casa di produzione Keystone. Pochi anni dopo nascerà La maschera di Charlot, The Tramp. Il vagabondo è l'icona del poveraccio ciondolante che si atteggia a gran signore, l'omino dal cuore d'oro che cerca di tirare a campare, di aiutare però chi soffre, utilizzando anche una buona dose di astuzia. Erano soliti dire: da dove gli è venuta l'idea per il costume del vagabondo? Lui rispondeva: semplice, dalla povertà. In Inghilterra ci sono tanti senza tetto, hanno vestiti lisi e sporchi, però indossano la cravatta. In altre parole, hanno sempre una dignità. Questa è la componente principale del mio personaggio. E questo era uno dei figli di Chaplin, che racconta la genesi del personaggio, il vagabondo, figura molto gettonata ovviamente, ma solo lui riesce a creare attorno a questa immagine un'icona, qualcosa di unico. La camminata sbilenca che è tipica dei poveracci, perché hanno sempre le scarpe rotte, strette, con i piedi malconci, una camminata che sì, fa ridere nel breve, ma poi se ci pensi viene dalla sofferenza, dall'emarginazione, dalla inadeguatezza. Questa sua immagine viene vista per la prima volta nel 1914, sarà solo la prima di centinaia di apparizioni. Chaplin gira 35 cortometraggi solo nel 1914, però i copioni, le direttive di Sennett gli stanno stretti, lui vuole più libertà di esprimersi, vuole dirigere i suoi film, passa alla S&A e poi alla Mutual Film, sono le prime, le nascenti corporazioni cinematografiche. La sua fama sta crescendo a dismisura nel mondo. Pensate che nel 1916 guadagna $600,000 all'anno, è una cifra che nessun attore aveva guadagnato prima. Ha un suo studio personale, ha una sala di proiezioni, alloggi per gli attori che sceglie per lavorare con lui. Lui è molto esigente con se stesso e coi colleghi, si dedica instancabilmente al lavoro. E forse l'unica costante nella vita di Charlie Chaplin è proprio questa sua completa passione, questa dedizione per la sua arte. In realtà c'è anche un altro forte interesse al quale non riesce a rinunciare: l'amore per le donne. Chaplin ama le ragazze giovani, ama attrici, magari più o meno di talento, però sempre molto belle, fresche. Lui sta per diventare uno degli uomini più famosi al mondo, le occasioni non gli mancano, però lui rimarrà per sempre un eterno romantico come Charlot. Avrà molte mogli, relazioni burrascose, ma non dimenticherà mai il suo primo amore, una giovane ballerina sedicenne che lo rifiutò per poi morire 10 anni dopo di malattia. E la sua prima compagna nella vita e nel lavoro si chiama Edna Purviance. Lei recita con Chaplin in oltre 35 film muti, diventa la sua prima musa e la sua prima donna in questo caso. E la storia con Edna termina nel 1918, i due però rimarranno amici fino alla morte di lei. Chaplin ha un sodalizio molto importante, quello col fratello Sidney, che è il suo agente personale, lo consiglia, lo aiuta a gestire i guadagni che stanno diventando immensi. Nel 1918 Chaplin entra nella First National con un cachet da primato, $1,000,000 nel 1918. Con la United Artists lui arriva a avere il pieno controllo, la totale libertà di esprimersi che aveva sempre sognato. Fonda questa società con David Griffith e con due amici, i coniugi Mary Pickford e Douglas Fairbanks. Entrambi sono star di Hollywood. Douglas in particolare diventerà per Chaplin come un fratello e lui lo definirà il solo vero amico che abbia mai avuto. Nel 1921 Chaplin gira Il Monello, un film muto, 50 minuti. Chaplin interpreta un vagabondo che si trova a accudire un neonato, un trovatello che è stato abbandonato vicino a un cassonetto. La comicità, vedete, è più profonda, si va a scavare, c'è una morale più commovente, a tratti anche, direi, profondamente autobiografica. Ascoltate David Robinson, che è il biografo ufficiale di Chaplin. Ci sono molti elementi autobiografici nel film. Questo terrore assoluto del bambino alla prospettiva di essere portato via in un orfanotrofio. Chaplin mette in scena e fa rivivere la sua esperienza di fanciullo che viene separato dalla madre. E come spesso accade, al successo professionale di questi anni non corrisponde certo la stessa fortuna nella vita privata. E Chaplin sposa Mildred Harris, dal quale ha un figlio che però nasce gravemente malformato, vivrà solo 3 giorni. I due divorziano nel 1920. È un'esperienza molto dolorosa, dalla quale trarrà ispirazione per Il Monello. Il film si rifà anche alla sua infanzia, a cose che aveva visto, sentito da bambino, e i suoi ricordi malinconici e dolorosi, le sue ferite aperte dalle quali non si separerà mai. E spesso lui torna a Lambeth a visitare gli orfanotrofi, a vedere i luoghi di povertà che non riesce a dimenticare. Si risposa Chaplin con l'attrice Lita Gray, è bella, è una ragazzina e lui è un genio, insomma è una coppia, come dire, impari, squilibrata. Insieme hanno 2 figli, non è un matrimonio felice. Si separano nel giro di pochi anni. Nel frattempo la sua comicità geniale lo porta a dar vita a una scena tra le più famose della sua carriera. Il film è The Gold Rush, la febbre dell'oro. Lui sta raccontando la storia di alcuni cercatori d'oro che lottano per sopravvivere, che per combattere la fame arrivano a bollire e mangiare dei logori scarponi. Ascoltate il ricordo di un'amica di famiglia di Chaplin che era presente sul set durante le riprese. Erano arrivati al 464esimo Chuck e Charlie e Mac continuavano a mangiare tutta questa liquirizia. Ora, se si fosse trattato di un paio di Chuck avrei anche capito, ma Charlie era un perfezionista e continuavano a rifare la scena, ma continuavano anche ad andare al gabinetto, perché la liquirizia è molto lassativa. Fu una scena molto dolorosa, ma andarono avanti finché Charlie non ne fu soddisfatto. Charlie non si accontenta, è un perfezionista. Sono proprio queste caratteristiche però che lo faranno arrivare così lontano e che faranno sì che lui diventi la prima star a aggiudicarsi un premio Oscar onorario, cioè un Oscar alla carriera. Siamo nel 29, lui ha scritto, diretto, interpretato e prodotto Il Circo. Però nel cinema c'è aria di cambiamento, aria molto pesante. Eh sì, perché nel cinema sta arrivando il sonoro. Charlot, una maschera che comunica tantissimo, fa piangere dal ridere e fa commuovere. È un personaggio senza voce, nel quale la società dell'era dell'industrializzazione si riconosce facilmente. Lui non comunica attraverso le parole, comunica col corpo, con gli occhi, con l'espressione, con la fisicità. In molti, peraltro, stanno cercando di convincere Chaplin a fare un film sonoro. Per esempio, anche il fratello Sidney vuole che lui si cimenti in quello che è il futuro, quasi il presente, e lui non vuole. Si convince che Charlot, piuttosto che parlare, se la deve dare a gambe. Non ha dubbi, la sua creatura Charlot non è adatta al sonoro, deve rimanere muta. Sentite questa discussione tra Charlie e il suo amico Douglas Fairbanks, è sempre dal film Charlot. Perché sei preoccupato? Io? Non ho un problema al mondo. Sono la più vecchia stella del muto in circolazione e sta per arrivare al sonoro. Di che cosa mi dovrei preoccupare? C'è il sonoro, Charles! Il sonoro! Te lo immagini il vagabondo che parla? È il futuro, Charlie. Non durante la mia vita. Il sonoro! Sonoro! Sonoro! Non attecchirà mai! Attecchirà mai! Il sonoro! E così Chaplin, imperterrito, prosegue a non far parlare il suo Charlot. Arriva a Luci della città, uno dei film più apprezzati della sua carriera. Il vagabondo che si innamora di una fioraia cieca e lei lo crede un ricco signore. E la scena nella quale la ragazza scambia il poveraccio per un gentiluomo entra nella storia del cinema come la più ripetuta, perché Chaplin gira un totale di 342 Chuck prima di ritenersi soddisfatto. Il problema che lui aveva era rendere credibile il passaggio fondamentale nel quale la fioraia cieca lo scambia per un nobile benefattore, e Chaplin non sapeva come realizzarlo, perché non voleva, quindi non poteva fare dialogare i due protagonisti. Alla fine trova la soluzione: la fioraia sente sbattere la portiera di una macchina di lusso e poi incontra subito il vagabondo e si convince così che l'uomo è appena sceso da quell'auto. Cioè è proprio il genio nella sua massima espressione, e il film è un successo mondiale. Chaplin assiste alla prima seduto al fianco di Albert Einstein. Ma ci sono altri successi planetari che attendono l'attore, e lui non riesce a stare lontano dal lavoro e anche dalle donne, soltanto che il lavoro gli porta gloria e le donne gli portano i problemi. Il falco e il gabbiano. Aveva nel sorriso il pianto del mondo e nelle lacrime delle cose faceva brillare la gioia della vita. Questo è il Corriere della Sera, quando ci scrivevano dei grandi giornalisti. E viene descritto così Charlie Chaplin, uno dei più grandi simboli del cinema di tutti i tempi. Un uomo che amava la vita, viveva la vita in tutte le emozioni che la vita gli offriva. Chaplin fino alla fine rimane uomo entusiasta ma riflessivo, introverso in un certo senso, uno che ricorda il passato con dolore, con malinconia, che spesso si sente solo anche magari davanti alla folla che lo osanna. Oggi stiamo ripercorrendo la sua storia, siamo arrivati agli anni 30, siamo alla soglia della nascita di uno dei suoi più emblematici capolavori, Tempi Moderni. L'America sta affrontando il periodo durissimo della Grande Depressione. Chaplin vive nel lusso, ma non smette di guardare la strada, perché è da lì che lui proviene. Chiede un capitalismo più umano per gli oppressi e propone, per esempio, come soluzione la moneta unica. Tutti parlano di lui, delle sue idee, viene conosciuto in tutto il mondo, è amato anche in Estremo Oriente. Lui guarda l'Europa e sostiene che gli europei siano caratterizzati da un patriottismo malsano che porterà alla guerra, e purtroppo è profeta in questo. Opinioni forti, opinioni che fanno discutere, che lo rendono antipatico a alcuni. Il tempo purtroppo gli darà ragione. Nel 1932 intanto lui conosce un'altra grande star di quei tempi, Paulette Goddard, se ne innamora. Lei ha 21 anni, ma non è la tipica ragazzina sprovveduta, è una donna intelligente che lo ama ma non lo adora. Si impegna perché stia di più con i due figli, che lui ovviamente tende a trascurare. È al suo fianco in tempi moderni e insieme girano questo film che diventa il simbolo dell'alienazione della fabbrica. All'inizio Charlot simboleggiava un gagà londinese finito sul lastrico. Lo consideravo soltanto una figura satirica. Nella mia mente i suoi indescrivibili pantaloni rappresentavano una rivolta contro le convenzioni. I suoi baffi, la vanità dell'uomo. Il cappello e il bastone erano tentativi di dignità, e i suoi scarponi, gli impedimenti che lo intralciavano sempre. Così Chaplin descrive il suo personaggio all'epoca di tempi moderni. Charlot interpreta un operaio pasticcione e il film è completamente sonorizzato, però lui rimane muto perché ovviamente si esprime ancora solo col corpo, col viso, con i gesti. Film esilarante che però ritrae anche molto bene il senso di vuoto, di ossessione che opprimeva gli operai delle fabbriche di quel periodo, costretti a fare sempre lo stesso gesto per ore e ore tutti i giorni. Charlot nel film comincia a avere delle allucinazioni, vede bulloni da stringere ovunque. Insomma, è la grande intuizione dell'alienazione, e il genio è questo. D'altra parte, ne passa di tutti i colori il suo personaggio, e ne passa di tutti i colori il suo personaggio. Poi trova una nuova ragione di vita, una giovane monella interpretata appunto da Paulette Goddard. I due si amano nel film, ma anche nella vita vera si sposeranno quello stesso anno, nel 1932. Chaplin cede al sonoro, comincia a pensare a nuovi film, vuole ideare altri personaggi particolari e nasce Il Grande Dittatore, il suo primo film completamente sonoro. Esce nelle sale nel 1940, direi per certi versi al momento giusto. È una delle sue idee più pazze, peraltro. Lui stesso dichiarò che forse se avesse saputo cosa accadeva davvero nei campi di concentramento, quel film non lo avrebbe fatto. Ma d'altra parte lui doveva far sorridere e far pensare, e questo ha fatto. Lui interpreta due personaggi: Adenoid Inkel, nome già che insomma è tutto un programma, che è un dittatore disperato che in realtà nel privato è ben lontano dall'immagine autorevole e autoritaria, insomma è quasi una macchietta, viziato dai suoi consiglieri. E l'altro personaggio è un barbiere ebreo perseguitato dai nazisti. Chaplin e Adolf Hitler ovviamente sono le due persone più lontane del mondo, però hanno qualcosa in comune: sono nati a 4 giorni di distanza e si somigliano fisicamente, tanto è vero che addirittura c'è chi dice che Hitler abbia copiato i baffetti di Charlot. Che ti prende, Sid? Per 10 anni mi hai assillato con il sonoro e ora faccio un film sonoro. Sì, ma non questo. Conosco quest'uomo, è come me, capace di qualsiasi cosa. Nessuno vuole vedere un film su Adolf fottutissimo Hitler! Io sì, invece! In fondo non parla di Hitler. Parla del vagabondo, il piccolo barbiere ebreo che prende il suo posto. Charlie, quello che sta accadendo in Europa non ci riguarda. Il 90% degli americani dice che dovremmo restare fuori dalla guerra. Sono 9 su 10! Non è affar tuo! Tu sei un comico. Sì, Sid. E tu sei un ebreo. Chaplin esprime apertamente la sua avversione verso i nazisti, si dichiara un pacifista e gioca con questo film nel quale ci sono le vite dei due protagonisti che sono gli estremi opposti e le vite però si intrecciano attraverso questo surreale scambio di persone e sul finale Adenoid Inkel fugge, cade in un torrente, perde la divisa e viene scambiato per il barbiere ebreo, mentre il barbiere ebreo prende il posto del dittatore e si trova a fare un discorso alla nazione, insomma un finale geniale copiato da migliaia di film. Ci sono due scene particolarmente conosciute, iconiche direi. Nella prima c'è Adenoid che danza sulle note di Wagner facendo volteggiare un mappamondo, cioè il simbolo delle sue ambizioni, con il mappamondo alla fine che scoppia. E nella seconda c'è l'ebreo travestito da dittatore che parla alla nazione. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abbiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti! E come avete sentito, Chaplin prende a pretesto questo discorso del falso dittatore per trasformare il tutto in un inno alla speranza, all'unità, diventa un manifesto del pensiero di Chaplin. Il film è un'opera audace, non vincerà nessuna statuetta, seguiranno anni difficili, però rimane un film conficcato nella storia. Nel frattempo Charlie si è separato dalla moglie Paulette e ha perso il suo miglior amico Douglas Fairbanks, che verrà stroncato da un attacco di cuore, e ha una breve relazione con un'altra donna, Joan Barry, e che però col tempo si rivela e succede una vera squilibrata. Il falco e il gabbiano. Tra tutte le tante donne di Charlie Chaplin, Joan Barry è quella che gli causa più problemi. È alcolizzata, lo trascinerà in tribunale sostenendo che la figlia che ha appena messo al mondo sia di Chaplin. Lui nega categoricamente la cosa e peraltro gli esami del sangue gli daranno ragione, ma lui comunque viene costretto, per il fatto che aveva avuto una relazione con lei, a pagare gli alimenti alla bambina. Insomma, la relazione è un disastro, finisce male, lui si libera finalmente di questa Joan Barry e incontra l'amore della sua vita. Lei è giovanissima, una O'Neill, lei ha 18 anni e lui 54, mi viene in mente il conte Mascetti. Però i due in realtà smentiranno tutte le maldicenze e anche direi le invidie, perché si ameranno per tutta la vita, avranno 8 figli, lui dichiarerà, avendo avuto anche figli quando era veramente avanti con gli anni, che il problema non è farli i figli, è tenerli in braccio quando hai quell'età lì. Un po' condivido. Nel 47 Chaplin gira Monsieur Verdoux, racconta la storia di un ex impiegato bancario francese che per mantenere la moglie inferma e la figlioletta va in giro a sedurre vecchie e zitelle per poi ucciderle e intascare il loro patrimonio. Scorpione. Come ha detto? Il suo segno astrologico. Oh, no, il toro. Ah, già, è chiaro. Sole e fuoco, lo scorgo nei suoi occhi. Laghi profondi di desideri che mai nessuno potrà intuire ed appagare. Davvero interessante. Lei sì, è interessante. Anche il mio segno è il toro, sono anime gemelle le nostre, lo sento. È strano che lei sia venuta qui oggi. Lo credo un avviso del destino. Davvero? Se la conoscessi meglio io potrei forse... Potrebbe che cosa? Non ho mai pensato a risposarsi. No. Singolare. Una danno del suo temperamento. Le pare? Ma vivere senza amore sotto il toro è impossibile. È un altro film dal finale amaro, è forse il più grande capolavoro di Chaplin, se è possibile fare una graduatoria. Luci della ribalta è il suo film d'addio, siamo nel 52, è l'ultimo film prodotto a Hollywood, è l'unico che interpreta assieme a un altro grande del cinema muto, a Buster Keaton, è la storia di un clown che è caduto in disgrazia, che salva la vita a una giovane ballerina che ha appena tentato il suicidio, che riesce a rincuorarla, la fa sposare a un pianista e la rimette sul palcoscenico, e mentre lei sta vivendo questo ritorno glorioso, il clown muore dietro le quinte per un attacco di cuore, forse causato proprio dalla gioia di averla vista di nuovo con le luci addosso. Insomma, i Chaplin stanno andando alla prima mondiale del film quando arriva per loro una condanna che li terrà lontani dall'America per molti anni. Charlie Chaplin non è più il benvenuto negli Stati Uniti per gravi motivi di sfregio alla moralità pubblica e per le critiche trasparenti al sistema democratico del paese che, accogliendolo, gli ha dato celebrità e ricchezza. Eh sì, perché lui è da molto tempo accusato di essere un comunista, e siamo insomma nel periodo del maccartismo, la caccia alle streghe. Alla fine le maldicenze sul suo conto hanno ottenuto l'effetto desiderato. E così, cacciato dagli Stati Uniti, Chaplin si stabilisce in Svizzera con tutta la famiglia e lì rimarrà per tutto il resto della vita. Gira i suoi due ultimi film, Un re a New York e La contessa di Hong Kong, film totalmente a colori, peraltro con Marlon Brando e Sophia Loren, però comincia a invecchiare e sta riflettendo più del solito sulla sua vita. E così nel 1964 scrive la sua autobiografia. In realtà tende a tralasciare alcuni dei periodi più sofferti, forse il segno che ancora è rimasto quel ragazzino insicuro, riflessivo, quello che doveva badare alla madre schizofrenica nei sobborghi londinesi. E la riconciliazione con l'America arriva molto gradualmente. Nel 72 finalmente torna negli Stati Uniti per ritirare l'Oscar alla carriera, gli viene riconosciuto per aver fatto delle immagini in movimento una forma d'arte del XX secolo, e nel 75, dopo tanti anni di esilio anche dall'Inghilterra, viene riconosciuto grande anche dalla sua patria, perché viene nominato cavaliere di sua maestà dalla regina Elisabetta II d'Inghilterra. È la notte di Natale del 1977, siamo a Courchevel in Svizzera. Charlie Chaplin chiede alla moglie Una di aprire le finestre della camera da letto, vuole sentire i canti di Natale. Un po' gli danno malinconia perché gli ricordano l'infanzia e la madre, ma li vuole sentire comunque. A volte è bello anche farsi un po' del male ascoltando della musica. Poi è tradizione, intorno alle 4 di notte Chaplin si spegne, a quasi 90 anni, lascia 10 figli, una eredità artistica immortale, lascia film attualissimi, film che non invecchiano mai, che trattano temi che interessano tutti, riflessioni su questioni che è sempre bene tenere a mente, la bontà d'animo, la generosità nella povertà, la solidarietà, la pietas, l'emarginazione, però anche i pericoli delle dittature e l'alienazione portata dalle nuove tecnologie. In realtà Charlie Chaplin amava l'umanità, si batteva perché la società diventasse migliore, ma lo faceva con la sua arma più perfetta, l'ironia. Lui diceva: la vita è una tragedia se vista in primo piano, ma è una commedia se vista in campo lungo. Siamo partiti da qui, da una bombetta, un bastone, dei baffetti, una camminata ondeggiante. Federico Fellini lo definì una specie di Adamo, il progenitore di chiunque avesse un ruolo nel mondo del cinema. Nel Vagabondo, Charlone, le vicende che lui raccontava, in realtà lui è riuscito a rispecchiare